Buongiorno, dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Montolivo, Ondà che si porta in posizione centrale, prova a servire Bacca che evita Berchi, la porta vuota, Bacca per il vantaggio del Milan al 14esimo, ancora lui, Carlos Bacca, 9° gol stagionale, anzi 10° gol stagionale, 8 in campionato, 2 in Coppa Italia. Parte il Carpi in contropiede, Lasagna, arriva anche Crimi, Lasagna in velocità su De Sciglio, ancora Lasagna, al centro c'è Crimi, pallone per lui e scusate, è il gol di Mancosu, al debutto, dopo 4 minuti e 50 secondi, Mancosu accorcia le distanze, segna il suo primo gol con la maglia del Carpi, su azione irresistibile di Lasagna. Il Milano è stato sempre sereno. Non è che a me mi cambi una o l'altra partita, io come ho detto so che questa storia va avanti da troppo tempo, da tanto tempo, e so che sarà così fino a fine campionato, però io sono cose che non mi interessano, lavoro duro, cerco di dare sempre il massimo per Milan, finché sarò allenatore del Milan andrò avanti per la mia strada, testa alta, cercando sempre di avere fiducia in quello che sto facendo, fiducia nella squadra, la squadra è unita. Cioè, tutto il resto su chiacchiere. Vabbè, questo è il capitolo Milan, tra poco lo affronteremo. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Sono preoccupatissimo. Perché? Per Florentino Perez. Ah, certo, perché c'è il blocco del mercato per due sessioni. Notizia che è uscita poco fa, la FIFA ha deciso blocco del mercato per due sessioni, cioè la prossima estiva e quella invernale successiva, per Atletico e Real Madrid, per la solita questione della, posso usare il termine tratta dei minori o si offende qualcuno, lo uso lo stesso, tanto per inquadrare la vicenda, uno di questi casi è l'ingaggio da parte del Real Madrid di Luca Zidane, cioè il figlio dell'allenatore. Però mi domando cosa potrà mai fare Florentino per la prossima estate e prossimo inverno, bisogna trovargli un resort. Sì, bisogna che fa? Cosa fa? Bisogna trovargli un giochino, una cosa alternativa, non lo so, un'altra forma di mercato, non so, le borse, qualcos'altro. Però certo, sicuramente è una tegola. Andiamo a FIFA pesante. 15, FIFA 16, FIFA 17. Quello ce l'avrà già, penso. Comunque, insomma, magari anzi poi leggere FIFA gli manderà di traverso la cena. Hai ragione anche tu. Idea del cazzo, va bene, ho capito. Tarocchiamoglio. Però certo, è un problema, soprattutto per lui, per la squadra. Per sì, lui. Perché poi l'Atletico Madrid ha una cultura degli acquisti e delle cessioni comunque più conservatrice da questo punto di vista, vende, poi ricompra, insomma ha fatto degli acquisti importanti, ha dei budget importanti, ma è certamente meno dipendente dall'idea del mercato rispetto al Real Madrid. Per Real Madrid se verrà confermata, perché poi insomma ovviamente questo è il primo grado, sarebbe pesante. Sì, storia simile a quella che ha penalizzato fino ad ora il Barcellona. Dopo ne parliamo, parliamo anche di un sacco di cose, magari arrivano i cinesi con delle borse, anzi dei bauli pieni di soldi e qualcosa possono combinare. Ti sento meravigliosamente bene, sembri qui con me. Non lo diciamo troppo forte, no, però diciamolo, stiamo... Diciamolo piano sottovoce, sì, ti sento benissimo. Esatto, bene. 800-24-0024, numero verde per intervenire, 349-238-6666, messaggi SMS e WhatsApp. Zombie come introduzione di Milan Carpi, stupendo, scrive un ascoltatore. Senti, la canzone è molto bella. Canzone è meravigliosa, dai. Il Milan ha un'autostrada verso la finale di Coppa Italia, sì. Con tutto rispetto ovviamente per Spezia ed Alessandria che se la giocheranno, la squadra che passerà se la giocherà alla pari, può diventare un obiettivo piacevole per la stagione del Milan. Chiaramente la sostanza è legata a un posto in Champions League, lo sappiamo bene, insomma i budget delle grandi squadre sono molto legati alla Champions League. L'Europa League va onorata, quindi chi ci finisce dentro deve assolutamente far bene. Mi pare che gli italiani da questo punto di vista abbiano passato, abbiano cambiato atteggiamento in positivo, fortunatamente. Chi non va in Europa cerca di costruirsi una stagione invece basata proprio dal fatto, sul fatto di non avere l'impegno europeo, che è un po' quello che sta facendo l'Inter quest'anno. Però vedi, un quarto di finale di Coppa Italia a gennaio con il Carpi, vinto peraltro di misura 2-1 e soffrendo pure un po', diventa un giorno speciale che impone di usare un sacco di carte, un sacco di inchiostro sui giornali. Mihajlovic è ancora salvo, la finale lì da prendere, il resto è mancia, insomma. È una situazione abbastanza surreale. Cioè, Milan, sì, beh, non è, cioè, è chiaro che è un, no, si diceva una volta, un brodino. Nelle ultime due partite, insomma, sappiamo, Mihajlovic camminava sul filo, continua a camminarci. Nelle ultime due partite si è visto prima il pareggio e il secondo tempo incoraggiante di Roma, poi la vittoria di ieri, che al di là delle sofferenze nel secondo tempo, comunque è una vittoria. E quindi adesso si va a Milan-Fiorentina. Milan-Fiorentina a questo punto è uno snodo cruciale. Però, ecco, sinceramente io credo che Mihajlovic non sia ancora salvo. Semmai in questi quattro giorni si è beccato due piccoli indizi a proprio favore, a favore della squadra, che ha una classifica certamente modesta, perché la distanza dalla Champions League, che è il vero grande obiettivo, è di 10 punti, per cui è un campionato in questo momento, sai, poi soprattutto per società che sono abituate al caviale, allo champagne, all'Europa League, l'idea che se fai un buon girone di ritorno poi vai in Europa League, che ripeto è una competizione da onorare, non va buttata via, però no, ma chiaro, però diventa difficile mangiare l'hamburger. Questo è ovvio, non è che ti puoi adattare. Dopo il panettone l'hamburger. Ancora Bacca, che in fondo, diciamoci la verità, è l'unico giocatore di livello internazionale di questa squadra. Questa squadra che ieri sera la guardavo, insomma, molto Genoa, un po' di Sampdoria, diversi comprimari. Giocatori comunque giocatori non di prima fascia, cioè guarda la formazione del Milan di ieri sera. Sì, la guardo, e sicuramente non è, anche qui il problema è il benchmark, no? È il metro di paragone col passato. In realtà secondo me Bacca è un giocatore sicuramente di livello internazionale, lo sta dimostrando anche in questa stagione. Bonaventura è un ottimo giocatore secondo me di prospettiva. E poi c'è poco altro, nel senso che poi c'è una serie di giocatori che sono di livello discreto, di livello buono, e che in però semplicemente, esatto, in alcuni casi in costruzione. Mignoli ovviamente è un grande prospetto, De Sciglio era un grande prospetto, si è un po' perso, anche ieri non ha brillato moltissimo, è un giocatore che deve un po' recuperare. Però sentivo il tuo discorso dell'altro giorno anche a proposito di Santon, spesso questi ragazzi che hanno un boom impressionante all'inizio della propria carriera poi hanno un calo fisiologico, probabilmente non è neanche colpa loro, però è chiaro che quando tu abitui proprio la naturale evoluzione dei giocatori giovani. Esatto. Mi ricordo poi questo discorso, pensa un po', fatto a proposito dello zio Bergomi quando 18enne vinse il mondiale. Poi ebbe anche lui un periodo di difficoltà e sentì questo discorso che mi colpì molto, cioè i giocatori comunque giovani di talento, quelli bravi, hanno un picco di rendimento all'inizio e poi attraversano una fase di regresso, poi diventano campioni quelli che riescono a riprendere la china, ad uscire da questa fase di regresso. Forse sto facendo della filosofia, forse sì. 800240024, allora fermiamoci per il traffico e poi parliamo anche di Spalletti che arriva a Roma, poi avremo Berinazzo che ci dirà le ultime sul Milan, avremo Berinazzo che ci dirà anche di questi cinesi che vogliono prendere tutto, compreso Granada di Pozzo, e poi molto altro. Ragazzi, state con noi. Tutti convocati. Tutti convocati. prima del ritorno di Mr. Spalletti, è stato il nostro allenatore per 4-5 anni e sono contenta, per 4 anni sono contentissima perché è un grande allenatore, lo conosco, un grande uomo, un grande professionista, lavora benissimo, come abbiamo vinto tre coppe, abbiamo schierato tutto il nostro detto, io mi auguro che oggi ancora possa fare ancora molto, sono un ottimista e conosco la professionalità dell'uomo e quindi mi faccio veramente tanti miei. Questa era Rosella Sensi che dava il benvenuto a Luciano Spalletti, che è arrivato da Miami ed è stato accolto da altri cori di benvenuto da parte dei tifosi, o meglio cori, facciamo così, suggerimenti. Fa ligore. Ma beh, prima pia a carci in culo e poi sì, fa ligore. Diciamo che avevo elegantemente glissato sulla prima frase, mi ero concentrato sulla seconda. L'hai capita però. Abbassate la qualità dell'audio di Pardo, altrimenti non sembra neppure lui scrive Leandro da Milano. Non so, fai qualcosa. No, allora su Rosella devo dire, fra l'altro ieri sera l'ho incontrata in un evento a Roma, premio Afrodite dedicato alle donne, dove è stata premiata, e quindi abbiamo anche parlato, diciamo così, off records, e posso confermare, non credo di fare nessuno sgarbo, assolutamente la sua devo dire il suo affetto, insomma. Quindi poi lei ovviamente rimane tifosa della Roma, ha vissuto gli anni fantastici con Spalletti, c'è la sensazione che possa essere l'uomo giusto. Questa poi è una città anche essenzialmente ottimista, è una città che anche nelle disgrazie sportive ritrova subito la speranza, l'ottimismo. Da questo punto di vista sicuramente il click, questo cambio lo dà, all'ambiente lo dà, non ci sono grandissimi dubbi. Poi io sono dell'idea che se realmente ci fosse stata la possibilità di arrivare a Conte, cosa che si dice, ma io la certezza matematica non ce l'ho, forse sarebbe stato meglio provare un traghettatore, perché penso che una figura come quella di Conte potesse essere una figura veramente di rottura, sì, certo, a Roma. Cioè, un allenatore che la certezza non l'avevano nemmeno loro, eh. No, probabilmente no, e poi comunque c'è questa stagione da vivere, insomma, non è che puoi stare sempre a aspettare il futuro in attesa, no, e sacrificare il presente. La Roma ha ancora una classifica interessante, ancora ha potenzialmente la possibilità di iscriversi, anche se è molto difficile, alla lotta scudetto, deve però ripartire da subito. Ecco, un'altra cosa che appunto diceva Rosella Sensi, sono abbastanza d'accordo con lei, che forse se si pensava di poter, forse si è traccheggiato un po', no? Si è perso un mese, si è traccheggiato dopo quel famoso Roma batte Borisov, c'era la squadra in un limbo, no? Si è traccheggiato per ben più di un mese, cioè dalla scorsa estate, quando mi sembra che il destino fosse già segnato. Giancarlo lì, Dotto, buongiorno. Al volo, ciao Giancarlo. Eccoci qua, buongiorno. Di buongiorno. Probabilmente le due cose da fare erano o decidere di dare forza a Garcia, certo, confermandolo senza se, senza ma, a fine stagione in maniera plateale agli occhi della squadra e dell'ambiente, oppure risolvere il rapporto un po' prima, perché Roma-Bate secondo me è stato uno spartiacque, una partita, sì, talmente brutta, una partita clamorosamente brutta, ma al tempo stesso una partita clamorosamente utile per continuare il viaggio europeo. Poi ovviamente il Real Madrid non è il massimo, insomma, diciamo, sì, della... Vabbè, ti aspetti, dai. No, però insomma, comunque bisogna provarci, bisogna onorarla, bisogna evitare la figuraccia. E poi, sai, insomma, nelle due partite non mai dire mai, non, se uno scende in campo sapendo, ma che quanto già meno perso, adesso, quantomeno adesso c'è qualcosa di nuovo sul fronte, qualcosa che comunque con Garciano si sarebbe più visto. Giancarlo, ora che... Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Come posso aggiungere qualcosa? Ma come no? Siamo qua apposta. Le cose sagge che ha detto Pardo. Come posso aggiungere qualcosa? L'altro giorno vedevo Tarantino ai Golden Globe, ma la vostra somiglianza è sempre più impressionante. Io già te l'ho fatto notare, la somiglianza tra Pardo e Tarantino. Grazie. Questa oralità anche ingorda, perché di solito, questa oralità. Di solito mi dicono che assomiglia a Ricucci, che, insomma, che rispetto, è abbastanza vero, lo so, me l'hai detto, ma questo è un ruolo per Tarantino, in realtà la somiglianza è tutta con Tarantino, credimi. Ti manca un Morricone e poi sei a posto. Se dovresti sentire i corri dei tifosi, Giancarlo, all'arrivo di Spalletti, fa licore, Fali corre. No, ma ora che il re è sportivamente morto, cioè Garcia è sportivamente morto, si trovano anche in realtà molti estimatori. Sembrava un rivoluzionario e finito ghigliottinato da Roma, come molti altri. Ma sai, come sai bene, bisogna essere defunti per trovare qualche traccio di estimatore, insomma, quindi... Ma tu mi pare che lo sia? Che sia defunto o che sia un estimatore? No, che sia un estimatore di Garcia. Beh, io sono sempre stato, sono anche un amico personale di Garcia, siamo stati tante volte, insomma, cioè abbiamo avuto modo di costruire un rapporto importante, insomma, un rapporto di amicizia importante, quindi questo naturalmente non mi ha impedito di fargli mancare le critiche quando dovevano esserci. Posso dire alla fine che sicuramente è un uomo che merita l'onore cavalleresco delle armi, un uomo di grandissima lealtà, una delle persone umanamente migliori mai passate a Trigoria, questo lo dico senza il minimo dubbio. Certamente tutto è cambiato nel momento in cui Pallotta lo ha tolto dal centro del villaggio, e devo dire, se voi ricordate bene, c'è una frase di Sabatini altamente sintomatica. Quando Sabatini disse a un certo punto in difesa di Garcia, voleva essere in difesa, ma in realtà fu una cosa abbastanza spietata, disse Garcia deve stare alla Roma perché merita la Roma. Allora voi direbbe mai qualcosa del genere un qualunque direttore sportivo di un Capello, di un Conte, di un Guardiola, di un Mourinho? Non so, Mourinho merita la Roma. È evidentemente un lapsus che fa capire come, insomma, Garcia sia arrivato a Roma sempre come quello che era arrivato al massimo della sua carriera, all'apice. Forse questo difetto di personalità lo ha pagato a lungo andare, accettando situazioni che non doveva accettare, come quelle che sappiamo, cioè quella appunto di... Ma quindi secondo te, tu la pensi come Pierluigi, secondo il quale è chiaro che la tempistica è ridicola, no? Si è svolta questa vicenda, tempi e luoghi sono abbastanza ridicoli. Sei d'accordo con Pierluigi sul fatto che bisognava prendere il toro per le corna dopo la partita col Bate Borisov, o sarebbe stato meglio farlo in prima? In un senso o nell'altro. Certo, Pier, in un senso o nell'altro. Aggiungo certo. Una cosa che ha scritto Giancarlo nel pezzo su Dagospia, che secondo me è illuminante e stracondivisibile. È stato un vero romanista, dice Dotto, e secondo me è vero. E lo è stato forse più di alcuni suoi giocatori, cioè sicuramente è uno che ha dato tutto per la causa. Io credo però che fosse oggettivamente delegittimato, e quindi o gli ridavi forza in maniera plateale. Sai, agli occhi dell'ambiente, per ridarti forza serve una società che sia degna di questo nome, non un proprietario che sta a Miami e da cui deve andare il nuovo allenatore, o un bravissimo direttore sportivo che però non ha il physique du role. Il proprietario può stare anche a Miami e farsi sentire, può avere un uomo forte qui, poteva anche confermarlo dopo l'8 dicembre, poteva anche dopo Roma Bate confermarlo e dire andiamo avanti fino a fine stagione senza se e senza ma. Sai, perché quando Milan era il Milan succedeva questo, quando la Juventus è la Juventus questo è sempre successo. Alla Roma, sinceramente, in queste condizioni chi poteva dire mettere una riga definitiva sulla vicenda e dire Garcia non si tocca? Chi poteva farlo? Poteva dirlo, chi l'ha fatto adesso poteva farlo allora, cioè parliamo di Pallotta. In realtà sono stati dopo la famosa conferenza stampa che fece Garcia, non mi ricordo se prima o dopo la partita con il Palermo, l'ultima di campionato, una conferenza stampa in cui Mis sottolineò, devo dire con grande decisione, insomma anche abbastanza insolita rispetto a quelli che sono i suoi toni morbidi, la differenza che corre insanabile tra la Roma e la Juventus. Quella era una dichiarazione da cui si doveva prendere atto che probabilmente Garcia aveva fatto il suo ciclo a Roma, una dichiarazione forte. Invece Garcia non l'ha sopportata quella dichiarazione, Pallotta non l'ha sopportata, l'ha considerata veramente insostenibile, e però da lì è nato un vulnus. Il problema è che sia la società che Garcia sono rimasti incastrati, ognuno per il suo verso, in un contratto talmente importante che li ha costretti a una mediazione che ha portato solamente danni. Certo. Vi chiedo una cosa ad entrambi, un parere, ma siate sinceri, tanto ci ascoltano solo quei 4-5 milioni di ascoltatori. Ma è stato lasciato per strada dai giocatori Garcia, secondo voi? Chi va per primo? Io non credo mai, a chi pensa che il giocatore possa perdere, a parte fenomeni criminosi, e quello è un'altra storia. Quindi non penso a una roba del genere. penso che, come diciamo spesso, poi il calcio è un gioco di eccellenze, è un gioco di piccoli dettagli dove se tu non dai il 100% ma dai il 98%, poi magari questo 2% si vede. E questo secondo me è quello che è successo. Poi secondo me, dal punto di vista tattico, se devo vedere la gestione di alcune partite, non è che Garcia abbia trovato delle soluzioni illuminanti. Cioè, secondo me la squadra non è stata allenata particolarmente bene, né dal punto di vista della preparazione atletica, né dal punto di vista della preparazione psicologica, né dal punto di vista tattico. Quindi, però sicuramente la responsabilità dei giocatori c'è, e da questo punto di vista la scelta di un nuovo allenatore serve anche per far cadere il parafulmine. Sì. E aggiungo che questo è un parafulmine che vale per i giocatori, ma vale anche per i dirigenti, perché sì, abbiamo mille volte, io sono ancora convinto che Sabatini sia uno dei migliori scopritori di talenti in giro per il mondo, però che questa società complessivamente non sia pronta, fatta e finita, cioè non abbia tutti i tasselli giusti al posto giusto, mi pare abbastanza evidente. Certo. Serve un uomo forte, serve disciplina, ma a maggior ragione perché il proprietario è a Miami, adesso poi era Boston, adesso è a Miami, non so, giro, poi è sempre un po' in giro, insomma, per carità, mica deve stare in campo. Però Mancini, per dirti, all'Inter in questo momento è un allenatore, Mancini, appunto, potenziario, no? Esatto. Mancini è il vero segreto dell'Inter, che pure è una società non diversissima da quella della Roma, con Tohir che è lontano, che di calcio capisce relativamente, con una struttura più manageriale che non calcistica. Certamente c'è Ausilio che dà una gran mano, ma l'uomo forte dell'Inter è quello che sta in panchina. Giancarlo Dotto, per chiudere, lo chiedo anche a te: è stato lasciato per strada dai giocatori? Abbiamo sentito diverse dichiarazioni nel corso degli ultimi mesi da parte dei giocatori, da Florenzia a Nainggolan, su partite non preparate bene. Io eccetera. Non è che mi faccio incantare degli abbracci o delle dichiarazioni, però posso dire una cosa: sì, che sicuramente i giocatori hanno molto apprezzato la lealtà e la franchezza di Garcia. Sicuramente i giocatori non giocano contro l'allenatore, non lo fanno mai o quasi mai, non hanno questo spessore criminale, perché di questo bisogna avere uno spessore delinquenziale forte, no, per ordire una cosa del genere. Però in che cosa sono bravi i giocatori? Hanno delle antenne speciali nel capire se il mondo, esatto, è contro il loro allenatore. Esatto, esatto. E in questo caso allora evidentemente viene a formarsi. Lasciamo stare se sia un livello conscio, inconscio, se sta al confine tra il conscio e l'inconscio, ma viene a formarsi un gigantesco alibi e se devi fare quella cosa in più non la fai. Ci fu un caso precedente con Zeman quando in Roma-Cagliari, assolutamente clamoroso e memorabile, la Roma non scese letteralmente in campo, cioè mandò in campo le sue maglie, sotto le maglie non c'era nulla, perché i giocatori avevano ampiamente capito che Zeman ormai era esattamente quello che penso io. E torniamo al discorso di Pardo, per cui il ruolo determinante è quello della società. Se la società è forte alle spalle dell'allenatore, i giocatori lo capiscono. Se i giocatori capiscono che l'allenatore non è più così solido e così stabile, come Garcia non era da mesi, ricordiamolo, sono i primi non a giocare contro, ma a sapere che comunque il parafulmine esiste e il grande alibi esiste ed è quello che sta in panchina. Grazie Giancarlo, alla prossima. Ciao. Grazie. A voi, ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Allora, Borsa, poi torniamo, 800 24 00 24, numero verde. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Torniamo immediatamente perché mi ha raggiunto Marco Berinazzo da Sole 24 Ore, con un sacco di cose da chiedere. Spero eccoci, di farcela. Buon pomeriggio. Ciao. C'è Pierluigi Pardo, naturalmente. Eccolo qui. Dottor Berinazzo, buongiorno, i miei rispetti. Come va? Tutto bene, tutto bene. Siamo pieni, pieni di notizie, di cose da dire. Dì la verità, che ci stai tu dietro a questa cosa del Milan, perché lo fai per scrivere di più, per twittare di più. Dì la verità. È chiaro che dietro una quale strategia, cosa? Una strategia mediatica. Una strategia mediatica. In realtà dietro Alibaba ci sono i 40 ladroni. Perché... C'è anche Marcello Lippi? Beh, Marcello Lippi è stato per molto tempo allenatore di una squadra la cui proprietà è anche di Alibaba. E quindi, cioè, mi è venuto in mente così, no? In maniera molto fantasiosa, che potesse essere stato contattato dal Milan per magari utilizzarlo anche in questa trattativa. Chiaro, tra gente che ci si conosce. Proposta barra offerta di Alibaba è di dicembre, quindi dal punto di vista dei tempi mi sembra logico che un incontro Berlusconi-Lippi focalizzato sulla panchina però abbia avuto anche qualche risvolto diverso. Un momento dedicato a chiarire chi sono questi possibili partner del Milan. Ora, la questione, naturalmente in queste ore la delegazione dei Fininvest sta incontrando i partner cinesi, quelli che fanno parte della cordata di Mr. B, quelli che dovrebbero mettere i famosi 480 milioni. La proposta di Alibaba è di fatto legata alla commercializzazione del marchio Milan in Cina in particolare e in generale poi in Asia. Però essendo questo anche il piatto forte del piano commerciale di sviluppo del Milan della cordata di Mr. B, è chiaro che la proposta di Alibaba diventa alternativa a quella e concorrente rispetto a quella di Mr. B. Per cui se dovesse fallire il progetto Mr. B, la Fininvest credo si rivolgerà poi ad Alibaba chiedendo però in cambio della concessione del marchio e di una serie di accordi commerciali anche magari di entrare nel capitale, magari con una quota piccola o di minoritaria, come per esempio ha fatto Citic con il Manchester City poche settimane fa. E io forse questa cosa l'ho già detto, ma tutto questo ha senso alla luce del progetto del governo cinese, quindi di Pechino, di potenziare il calcio. Progetto che parte dalle scuole, dove sarà reso obbligatorio il calcio. E lì nel piano di Mr. B c'è questo piccolo calcolo che spiega però tante cose. Ci sono 200 milioni tra bambini e ragazzi che accederanno in qualche modo al calcio. Se il Milan, che comunque è tra le squadre europee la terza o la quarta in termini di popolarità, dovesse acquisire un 5-10% di questa fetta di mercato, quindi vendendo il proprio kit, mettiamo a 10-20 euro, i prezzi bassissimi sono numeri, caro mio. Aumenterebbero, raddoppierebbero l'attuale fatturato del Milan, ecco. Poi c'è un altro punto su cui io e Pierluigi eravamo molto preoccupati, e cioè l'estate di Florentino Perez, perché notizia di oggi: bloccato il mercato per la prossima sessione estiva e per quell'invernale successiva, quindi del gennaio 2017, per Real Madrid e Atletico Madrid per una vicenda simile a quella del Barcellona, e cioè quella della contrattazione di ragazzini, tra cui c'è anche curiosamente Luca Zidane. Irregolare tesseramento di under 18. Ora la FIFA ha posto delle regole molto, molto chiare a tutela proprio dei minori, in particolare in caso di trasferimento internazionale. La sfrenata concorrenza che ormai c'è sui mercati globali a trovare il fenomeno ha fatto sì che in particolare tra Barcellona e Real Madrid si è creato un braccio di ferro e non si sia andati tanto per il sottile quando si trattava di tesserare o di utilizzare baby calciatori che avevano, come dire, prospettive di essere i nuovi Lionel Messi o i nuovi Cristiano Ronaldo. A patire per prima le sanzioni della FIFA è stato il Barcellona, che però ha segnalato a sua volta le irregolarità commesse da Real e Atletico Madrid, e ora pagano Real e Atletico Madrid, che a questo punto dovranno fiondarsi sul mercato. Beh, sai che corre diciamo, dire che non corre buon sangue tra Real e Barcellona è dire questo, poco. Questo lo sappiamo. Pierluigi, siamo a un passo dalla pedofilia, scrive un ascoltatore. Beh, siamo in una terreno scivoloso. Tratta di minori, ovviamente, di lusso, anche perché poi qui c'è da dire che la stragrande maggioranza di quei bambini, quegli adolescenti che vengono presi dalle squadre di calcio, in realtà non si sentono schiavi, ma si sentono dentro un sogno. Questo va detto, cioè, dal punto di vista poi personale di questi ragazzi. È un'occasione straordinaria, qualcosa che assomiglia nel mondo dello spettacolo a chi viene preso in un casting per andare a fare un reality o qualcosa del genere. Quindi parliamo certamente di una delle professioni che possono dare più popolarità, ricchezza e felicità a un bambino. Detto questo, come tutte le cose della vita, bisogna che ci siano delle regole, soprattutto perché poi insomma, si parla con con i sentimenti giovani e quindi con le particolari sensibilità di questi ragazzi, per cui insomma ci sono state delle regole violate, è giusto che si paghi, ma in generale questo vale per tutto il calcio, secondo me. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo assistito a un clamoroso allargamento della forchetta fra ricchi e poveri nel calcio. Ora capisco che non si può tornare indietro, altrimenti si fa come quei vecchi tromboni che ce l'avevano con la TV a colori 40 anni fa ce l'avevano con internet 20 anni fa. È ovvio che è impossibile tornare indietro, però è evidente che il calcio, la bellezza del calcio passa attraverso dei meccanismi di riequilibrio, a quello che succede negli sport americani, dove ad esempio c'è il concetto di draft, il draft che è fondamentale perché è un meccanismo di riequilibrio, no? di tutto il campionato, come anche il salary cap, sono tutti strumenti che vengono usati affinché si crei la competizione, perché se non c'è competizione alla fine, se vince alla fine sempre chi è più ricco, e guardate che nel calcio europeo degli ultimi 20 anni è così. Sì, infatti, sì. No, cioè oggi una squadra, oggi la Sampdoria o il Genoa o il Torino non può neanche pensare di vincere il campionato. A tal proposito, Pier, volevo ricordare questi dati che ha citato l'altro giorno alla Bocconi al convegno sul fair play finanziario Andrea Traverso, che è colui che ha scritto il regolo del fair play finanziario, e raccontava di come negli ultimi 5 anni le 20 squadre top d'Europa hanno incrementato i propri ricavi commerciali da sponsorizzazione di circa 1,5 miliardi di euro. Le altre 700 squadre professionistiche del circuito europeo hanno sia aumentato questo tipo di ricavi, ma solo di 300 milioni. Quindi sono dati impressionanti che testimoniano di come la forchetta, ed è anche il motivo per cui per esempio Karl-Heinz Rummenigge ha riproposto quell'idea di una Superlega, cioè, europea, che avrebbe perfetto diritto di cittadinanza ormai, secondo me. Io sono d'accordo sulla Superlega europea, come principio, perché quello è il mare alto in cui devono nuotare questi club. Io sono invece più dell'idea, per esempio, quello che è successo da 2 anni, no? Si è cercato in qualche modo di riequilibrare i rapporti di forza fra Champions e Europa League, senza riuscirci del tutto, nel senso che la differenza fra Champions e Europa League rimane siderale, però è comunque meno di prima. Io penso che l'equilibrio sia importante. L'equilibrio sia importante, cioè o si va verso il modello veramente della Superlega, però è un modello che taglia fuori l'elemento tradizionale del calcio. Nel senso questo che è vero, qualcosa bisogna rinunciare, cioè, Pier, così, non, sì. Così diventa estremamente, sì, difficile, ma non solo in Italia, in tutta l'Europa. Ti farà Barcellona o ti farà Real Madrid? Non c'è problema. Non c'è problema. Sì, infatti, c'è infatti problema, però la domanda centrale è, per esempio, il tentativo di rafforzare il calcio francese. È stato aiutato o meno dal fatto che c'è oggi il Paris Saint-Germain che vince, si trova adesso con 20 punti di vantaggio? Ci sono delle potenze egemoni in qualunque campionato europeo che non possono essere spodestate, quindi abbiamo, l'ho detto diverse volte, ho usato diverse volte questa immagine, prima o poi devo trovarne una nuova, diverse corazzate che nuotano negli stagni dei rispettivi campionati e che sono francamente inavvicinabili, ma per ragioni economiche. Quindi vogliamo andare avanti così e poi goderci il midollo del calcio, dei vari campionati, oppure vogliamo pensare a qualche cosa di diverso? Secondo me sarebbe ora di pensare a qualcosa di diverso, anche perché un riequilibrio delle forze lo vedo praticamente impossibile con i meccanismi attuali e soprattutto inapplicabile e inattuabile in tempi brevi. Fermiamoci per il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Andrea, per la cronaca, da ora è ufficialmente ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Roma, come se prima non fosse ufficiale. Comunque, così viene... La sessione di allenamento si svolgerà a Miami Beach, no? A Miami Beach. A Trigoria. No, non sono così sicuro. Sul sito della Roma c'è foto di Spalletti con le braccia allargate, un'enorme scritta: è tornato 6 anni e mezzo dopo. È una bella storia, adesso dire di tutto, al di là di come andrà, è una storia anche romantica, perché Spalletti è stato un grande allenatore per la Roma, è stato un allenatore che ha portato una qualità del gioco incredibile, che ha sfiorato delle imprese eccezionali come il campionato, mi ha fatto vedere un grandissimo calcio dal punto di vista estetico, forse è stato il calcio più bello che la Roma ha mostrato negli ultimi 10 anni, ed è anche uno che poi quando si è fatto la parte l'ha fatto con grande stile, con grande eleganza, secondo me, quindi questo va riconosciuto. È una bellissima storia, poi sul futuro, sai, non è che basta l'allenatore. Fra l'altro arriva in un momento in cui il mercato è aperto, quindi certo. Io mi aspetto anche che a questo punto la Roma per esempio, fare dietro a quello che si dice, cioè questo temporeggiare improvviso per il Sharawi, magari c'è la legittima necessità di confrontarsi con un nuovo allenatore. Chiaro, chiaro. Luca, provincia di Modena, poi Claudio da Milano, Marco da Milano. Buongiorno Luca. Salve, salve, buongiorno a tutti. La mia domanda è, io sono un tifoso interista, sì. E la mia domanda è riguardo alla Roma, e mi chiedo se eventualmente Totti, che secondo me è l'uomo forte, come voi parlavate prima di Mancini, per noi ancora nella società Roma, avrebbe potuto fare un passo indietro piuttosto che alla fine di quest'anno, molto probabilmente l'anno scorso, e quindi poi lasciare forse più libertà sia alla società sia all'allenatore per quanto, ma, riguarda. Guardi, questo, Totti non, sì, non è mai stato un ingombro in questa stagione, anzi, forse ha brillato per assenza anche dal punto di vista mediatico. Sì, sì, io credo che questo è il primo anno, veramente Totti free, sì, per così dire, della Roma, nel senso che si è visto pochissimo, anche perché si è fatto male ed è stato al suo posto, senza una polemica, senza un problema, quindi mai come quest'anno non è stato proprio condizionante in negativo. Totti è stato condizionante in passato, sicuramente in certi momenti, però anche lì, sai, la teoria di quelli che dicono che Totti ha impedito a certi giocatori di arrivare, secondo me è molto ardita. Sì. Totti, quando è arrivato Batistuta, ci ha giocato, ci ha vinto lo scudetto, ci ha giocato bene insieme. Secondo me in certi momenti è stato anche un parafulmine, perché magari non c'era la forza economica per poter arrivare a fare certi acquisti. Poi certo, Totti è un giocatore che ti condiziona, come Del Piero condizionava la Juve, come i grandi giocatori condizionano le squadre. Questo è normale. Con le bandiere che fanno sempre ombra anche qualche volta agli allenatori, però quest'anno veramente Totti... nulla, anzi, semmai l'unica cosa che si può dire è che nel momento nel quale la squadra ha cominciato a inabissarsi, lui era fuori, lui non ci ha messo la faccia. Bravo, però sappiamo, esatto. Però sappiamo pure che è un tipo di carattere, è un tipo di leadership più tecnica che caratteriale. Cioè, Totti non è mai stato un giocatore, come dicevo l'altro giorno a proposito di Buffon, non è mai stato Buffon, che è uno che è un leader anche dal punto di vista dialettico. Totti è sempre stato un leader, un bravissimo ragazzo, un campione straordinario, ma essenzialmente un uomo che è stato sempre nel chiuso dello spogliatoio, insomma, non ha mai fatto, sì, appunto, quindi... appunto discorso è inverso rispetto a quello che ha fatto l'ascoltatore prima, cioè Totti in quest'anno, in questa stagione, infortuni a parte, si è notato per assenza. Volevo chiedere un'altra cosa a Marco Verinazzo invece: che effetto ti fanno i cinesi, ad esempio quelli del Yang Sun Suning, spero di averlo pronunciato bene. Certo. Beh, si lega, arrivano. Quanto viene Luis Adriano, che nel Milan non gioca, fa panchina, ha segnato 3 gol, avete pagato 8 milioni, facciamo 14, va bene, e danno 14. 6 milioni, 8 milioni a Luis Adriano. E danno 8 milioni a Luis Adriano, e adesso vogliono Guarin, e poi chi altri volevano Eder, che però ha detto no, guardate, preferisco stare da queste Yang parti Suning per giocare in nazionale. È una squadra peraltro che ha un legame con tutto quello che abbiamo detto per esempio sul Milan, perché Alibaba è da poco azionista al 20% di questa squadra, anzi è ovunque, per meglio dire è azionista del Suning Commerce Group, che è un'azienda di commercio elettronico, una cosa che fattura tipo 14 miliardi all'anno, ma roba così. È diventato quindi indirettamente anche coproprietario del Yang Suning, oltre a essere Alibaba, ripeto, coproprietario del Guangzhou, e si tratta di quelle realtà che sono state messe come una sorta di risico dal governo cinese a presidio di questo progetto. Alcune sono venute a comprare in Europa, altre stanno potenziando. Ormai credo che sia il terzo o il quarto anno di calciomercato in cui parliamo di importanti operazioni. Ricordiamoci che al Guangzhou, per esempio, giocano Robinho, Paulinho. Paulinho è stato inseguito dall'Inter credo per un paio d'anni. Quindi si tratta di una realtà in assoluta crescita, in crescita verticale, che a qualcuno in Europa fa ancora sorridere, un po' come il campionato americano, sì, ma che ha delle potenzialità enormi, tutt'altro che, certo, adesso, che trascurabili. Cioè, dicono anche che i cinesi vogliano il Granada dai Pozzo. Si parla anche di questo. Sono estremamente attivi sul mercato, Pier. Cosa ne sai tu, Pierluigi, della storia dei giocatori posseduti, non dal demonio ma dai fondi di investimento. Posseduti è una parola brutta. Controllati, diciamo, col demonio Belinazzo ci si può parlare più dialettica, si può trattare con più facilità. Ma no, vabbè, i fondi di investimento, Belinazzo è esperto della materia, i fondi di investimento, tutto ciò che ha un valore economico diventa oggetto di speculazione a ogni livello. Insomma, sappiamo benissimo questa figura della radio di Confindustria che per esempio in borsa si può giocare sul guadagno, ma si può giocare anche sul calo, no? Cioè, ogni cosa ha il suo negativo, quindi figuriamoci se i calciatori, che sono ovviamente dei future, sono sicuramente delle opzioni. Quindi è un discorso che non ti scandalizza. No, è un discorso che non mi piace, però faccio fatica a pensare che si possa tornare indietro. Però io vi come blocco, tutte le materie deve essere regolamentata, certamente. Vi blocco prima, Pier, perché qui si sta facendo un discorso anche sui giornali che parlano ormai di questi fondi, senza, diciamo, tener conto di quelle che sono le norme, perché la FIFA, dopo anni di discussioni, e poi se volete vi do la mia opinione su quello che dovrebbero essere i fondi, avrebbero potuto essere, per meglio dire, la FIFA comunque li ha vietati a partire dal 1 maggio 2015. Allora, i contratti che sono stati fatti con i fondi tra il 1 di gennaio e il 30 aprile 2015 potevano avere la durata di un anno al massimo. Dopodiché la FIFA ha detto i contratti esistenti, quindi quelli fatti prima del 2015, vanno a naturale conclusione. Nel momento in cui giocatori sotto contratto di un fondo per 3, 4, 5 anni si ritroveranno a essere sotto quel fondo per questo periodo, alla fine quel periodo saranno liberi e quindi il contratto si scioglie e non si potrà fare un nuovo contratto. Quindi nelle vicende che abbiamo sentito in questi giorni, oggi si è parlato per esempio di un fondo interessato a Gabbiadini, al di là sia vero o meno, ma tecnicamente non è possibile. Però c'è Cerci, ad esempio, che è controllato da un fondo catariota che si oppone al passaggio in prestito al Genoa, perché probabilmente quel contratto è stato fatto prima del 2015 e quindi fino alla sua scadenza è ancora valido, oppure è stato fatto tra il 1 gennaio e il 30 aprile del 2015 e varrà fino al 2016, quindi per un anno, dipende da quando è stato fatto. Non c'è informazione su questo, non essendo l'Atletico Madrid quotato. Quindi i fondi sono stati messi in fuori gioco praticamente. Sì, dal punto di vista filosofico, se vogliamo fare un attimo, dire se indubbiamente la presenza di questi fondi era un problema, visto che non c'erano regole, perché potevano influenzare l'andamento e la gestione delle squadre, decidendo quando un giocatore doveva essere venduto e quando no. C'erano problemi di riciclaggio, non si sapeva chi era dietro questi fondi. C'erano problemi di combin possibili. Pensiamo all'ipotesi in cui 3-4 giocatori di una squadra che gioca contro un'altra. Ci sono mille ipotesi di perversione immaginabili. Detto ciò, se si fossero poste delle regole, diciamo, di chiarezza e di trasparenza, cioè devo sapere a chi appartiene il fondo, chi lo finanzia e chi sono i giocatori sotto contratto, a quel punto io non vedo la differenza tra un fondo che aiuta a sostenere le squadre e una banca che finanzia una squadra. Sì, probabilmente il giochino del fondo sta proprio in qualche modo nella segretezza di chi vi partecipa, se no mi in un certo senso sì, però è anche vero che se noi guardiamo non funzionare più. Guardiamo quel discorso che abbiamo fatto prima, un calcio sempre più ricco con delle big, delle corazzate definite, le uniche squadre che sono riuscite a scalfire questo predominio sono state il Siviglia, l'Atletico Madrid, il Porto in questi anni, che hanno vinto l'Europa League, sono arrivati addirittura nel caso dell'Atletico Madrid quasi a vincere la Champions, finanziate dai fondi e sostenute dai fondi. Dopodiché mi si dice che i fondi sono il cancro del calcio. Io posso dire che magari è vero, sta di fatto che il 90% fino all'anno scorso dei calciatori brasiliani era apparteneva sì, ai fondi. Certo. E quindi è una realtà con cui fare i conti. La FIFA ha deciso per il divieto e quindi sapere che d'ora in poi non si possono fare più contratti di questo tipo, quindi nessun fondo può acquistare quote del cartellino di un calciatore. Quindi quel gioco è finito. Vabbè ragazzi, vi saluto. A presto. Ciao Pierluigi. Ciao, grazie. Come è andata? Che audio abbiamo avuto? Una meraviglia, guarda. Sono quasi commosso. Anch'io. Non è il raffreddore, che ho. Non ho raffreddore, sono commosso proprio. Sì, sono le lacrime. Scendono le lacrime. Grazie Marco Belinazzo, ciao. Noi ci sentiamo subito dopo, ci risentiamo subito dopo il GR. Claudio da Milano e Marco da Milano, vi prego, rimanete con noi, 800 24 00 24, mercato e molto altro nella seconda parte. Ciao Marco, ti voglio bene. Tutti convocati. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo della prospettiva del cane, mm-hmm. Perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Si ricomincia. Tutti convocati. Io ringrazio subito Claudio e Marco, entrambi da Milano, che sono in linea con noi. Sono in linea con noi da un po', 800240024, ma convocatissimi, eh. Claudio, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, dimmi. Io sono milanese, tifoso del Milan e anche tifoso di Esharawi. Quando venne ceduto in prestito al Monaco, insomma, ci rimasi un po' male. Adesso vedo che Galliani sta ripensando un po' la cosa, forse può restare, forse lo cediamo in prestito a qualcuno. E io mi chiedo, e chiedo anche a voi, ma questo ragazzo, che tutto sommato nei momenti in cui stava bene, è stato bene, ha dimostrato di essere un buon giocatore, più che buono, sì. Anche in nazionale Conte lo apprezza, ha fatto vedere buone cose anche recentemente, al netto dell'esperienza Monaco. Io dico, ma valeva la pena cederlo e prendersi, non so, un Luis Adriano? Ok, c'è stata la plusvalenza, ma lasciamo un attimo da perdere quello che stavano a fare. Beh, sono giocatori differenti, Claudio. Secondo me El Shaarawy aveva bisogno di una cosa sola, cioè di giocare con continuità. In un ambiente magari anche, questo lo aggiungo io, più tranquillo rispetto a quello attuale rossonero. Ha bisogno di ritrovare continuità come giocatore, l'abbiamo visto per diverse stagioni pochissimo, causa infortuni e problemi vari, e quindi l'idea comunque di prestarlo ad un club che ne garantisca un impiego nell'interesse del giocatore. Poi è un giocatore che piace anche a me, eh. Non so esattamente cosa possa apportare a questo Milan, il cui modulo è ancora abbastanza embrionale, però è un giocatore che vale la pena di non perdere per strada per il calcio italiano, dandolo in prestito, tenendolo, ma comunque trovando una soluzione che gli consenta di giocare dei minuti e delle partite, perché questa è la cosa fondamentale per uno che è stato fermo così a lungo. Marco, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Anch'io purtroppo del Milan. Io volevo fare... sono sfighe peggiori, Sì, beh, questo è vero. Io volevo più che altro, come tifoso stufo del tiro al piccione sull'allenatore. C'è un responsabile, il dottor Galliani, che ringraziamo per quanto ha dato al Milan, che negli ultimi 3-4 anni di giocatori buoni ne ha presi 2 per sbaglio. Perché io non voglio dimenticare che quest'anno, nella campagna acquisti del Milan, il Milan aveva preso Jackson Martinez, che fa la riserva a Torres, e Simeone di calcio ne capisce, e con Dobbiá, che non è un gran giocatore. È stato preso Bacca perché non è stato preso Jackson Martinez. L'unico buono che abbiamo, che si può investire per il futuro, è un giocatore scelto da Mihajlovic, Alessio Romagnoli. L'anno scorso per sbaglio è stato preso quello che doveva andare all'Inter, che non mi sfugge il nome, il migliore del Milan. Buonaventura? Buonaventura, perfetto. Beh, tra uno sbaglio e l'altro magari qualcosa di buono è stato fatto. Cioè... Sì, però stava andando all'Inter, è stato preso all'ultimo momento. Di giocatori, purtroppo, sempre a parametro zero, sono come le auto usate. Ne azzecchi una ogni tanto, ma l'auto usata, se te la danno, che è pur bella... Capito, Marco, però se un conto è se tu vai a fare il mercato con molti soldi in tasca, come per molti anni è successo. Un altro conto è se vai a provare a fare il mercato e di soldi in tasca non ne hai. Quindi questo fa una profonda differenza. Io credo che quest'anno il Milan non abbia speso male, abbia costruito una squadra di prospettiva, quindi una squadra certamente per molti aspetti verde, acerba, difficoltosa anche da gestire, incapace proprio anche per queste ragioni di gestire la grande pressione che si è venuta a creare su tutto l'ambiente. Dunque ci sono tante componenti, io continuo a pensare che la principale componente da sistemare per il Milan sia quella societaria. Fino a quando non ci sarà chiarezza sulla cima della montagna, sarà molto difficile poi costruire qualcosa di solido per quanto riguarda il mercato per quanto riguarda gli allenatori che vanno e vengono e che comunque da ormai troppe stagioni continuano a camminare sul filo del rasoio, quindi credo che siano, che le responsabilità siano abbastanza diffuse, non siano esclusivamente di questo o di quell'altro. Galliani ha fatto anche grandi acquisti, grandi colpi nel passato, non lo dimentichiamo, in parte andati a segno, in parte sfumati, non per sua responsabilità, mi viene in mente Tevez, però ripeto, un conto è fare mercato con molti denari in tasca, un conto è farlo con denari scarsi. Paolo Parma, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Ascolti, volevo fare una riflessione su qualcosa che secondo me è curioso, volevo una sua opinione. L'estate scorsa c'era il famoso valzer degli allenatori con il Napoli che è stato per molto tempo vicino a Mihajlovic, sì. Invece il Milan che per molto tempo è stato vicino a Sarri. Sì. Vedendo adesso la classifica e su come viene elogiato l'uno e molto spesso criticato l'altro, secondo lei se le panchine fossero state inverse la classifica sarebbe la stessa oppure non, ci sarebbero Cioè, secondo me è un equivoco, ne parlavamo proprio ieri, sarebbe un equivoco pensare che con Sarri il Milan sarebbe primo. Il Napoli è una squadra molto più pronta, che ha qualità molto superiori di rosa rispetto al Milan, e poi lì Sarri ha fatto un eccellente lavoro, così come sarebbe fuorviante pensare che io credo che il Napoli avesse potuto esprimere questo gioco con Mihajlovic in panchina. Indubbiamente il Napoli è fin qui la squadra migliore del nostro campionato dal punto di vista pratico, dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista tecnico e tattico. Dal punto di vista spettacolare possiamo metterci la Fiorentina, la Juventus è in grande crescita, ha superato l'impasse del cambio di pelle, dunque questa è la crema del nostro campionato, ma dire che con Sarri il Milan sarebbe primo in classifica è secondo me fuorviante, perché il Milan comunque non ha un organico competitivo con nessun allenatore per competere, non ha un organico competitivo per i primi posti della classifica e probabilmente neanche, anzi certamente nemmeno per la zona Champions League, ma intanto il mind game in testa alla classifica è cominciato. Non sappiamo fino a dove possiamo arrivare, siamo un maratoneta che è a metà maratona sta dicendo per ora ce l'ho fatta, però c'è 21 km all'arrivo, quindi non lo so, e siamo anche un maratoneta che non ha grande abitudine a correre le maratone. Vista la matematica, al momento a 82 punti c'è lo scudetto, perché il Napoli ha girato a 41 e il Napoli, nonostante che Bonsarri si nasconda, il Napoli è una squadra che fino alla fine lotterà per lo scudetto. Un gioco psicologico, perché cerca di scaricare la tensione che può darti una piazza come Napoli, stando lassù prima in classifica, e quindi cerca di scaricare sulle altre squadre, prima era l'Inter, poi la Juve, quindi è normale questo giochino, però noi siamo consapevoli che sarà apertissimo fino all'ultima giornata. E io saluto e ringrazio con grande piacere quello che ormai è il signore televisivo del calcio di Sky, Alessandro Bonan, tra Calcio Mercato e Sky Calcio Show. Ciao Ale. Ciao Carlo, ciao, buongiorno. Mind game già cominciato in testa alla classifica. Napoli e Juventus, aggiungiamo anche qualcun altro? Beh, insomma, Napoli, Juventus, Inter e poi direi che attenzione alla Roma, che si rigenera un po' con Spalletti. La Roma secondo me è una grande squadra che ha sfruttato poco il potenziale che ha, poi magari correggerà qualcosa anche con il mercato. La Fiorentina si è chiamata fuori con due prestazioni sciagurate, quella con l'Empoli in casa e l'ultima con la Lazio, però insomma tagliarla fuori a prescindere adesso direi che forse è sbagliato. Sta facendo un grande risultato sportivo, poi a prescindere da dove possa arrivare la Fiorentina, perché siamo uomini di sport, quindi è un grande risultato sportivo comunque questo. Ale, c'è una cosa che a me impressiona, ne ho parlato prima con Belinazzo, con Pardo, eccetera, eccetera. Una volta, sai, i cinesi arrivavano in Italia, magari a Milano, via Paolo Sarpi, mettevano sul bancone due buste della spesa piene di denaro contante, dicevano voglio comprare questo bar. Adesso arrivano con il vagone e dicono voglio comprare questo giocatore o questa società. È un fenomeno impressionante. Sto parlando di Luis Adriano, sto parlando di delle ultime che sentiamo sul mercato, ma anche sul fronte societario, non solo il Milan, ma cinesi che vogliono prendere Malaga di Pozzo. È un fenomeno di colonizzazione abbastanza significativo. Sì, vabbè, ma è la colonizzazione che poi precedentemente ha riguardato i russi e poi dopo gli arabi e adesso è il momento dei cinesi, la colonizzazione del capitale. È un mondo che si è aperto all'Oriente, diciamo, quindi coinvolge tutti quei settori dove c'è grande business e tra questi c'è anche il calcio. Non mi preoccuperei più di tanto, anzi voglio dire, se frulla più denaro a questo punto meglio. L'importante è che questo denaro poi non venga sperperato, non venga buttato via. E non ci si dimentichi di alcuni principi basilari del calcio, per esempio che le grandi squadre vincono le partite e i campionati, le grandi squadre sono composte da grandi allenatori e le grandi squadre sono composte anche da un fattore indigeno, cioè con giocatori cresciuti magari sul posto nel settore giovanile. E in queste grandi squadre poi tu devi incastonare dei giocatori, magari il campione che arriva dall'estero. Mi sembra che ultimamente la tendenza sia stata in maniera esagerata quella di portare troppi giocatori dall'estero che non avevano la patente di grande giocatore e magari soltanto qualche italiano. Ecco, bisognerebbe secondo me invertire i fattori. Sì, le grandi squadre sono fatte anche da grandi società che sono quelle che decidono il futuro degli allenatori o in un senso o nell'altro. Qui mi viene in mente un parallelismo tra il Milan e la Roma, sono due società. Una con un proprietario lontano che riceve il nuovo allenatore a Miami in questa vicenda abbastanza grottesca e l'altra è il Milan, ne parlavo prima, per il quale non c'è chiarezza dal punto di vista societario e questa chiarezza poi arriva pian piano attraverso vari passaggi sul campo. Ma guarda, è probabile che questo si verifichi. Io so soltanto che quando si parla di Mihajlovic si parla di una persona seria e di un bravo allenatore, che crede in un calcio che non è, per esempio, visto prima stavate citando Sarri, non è esatta l'equazione, se c'è Sarri il Napoli, il Milan vince di più. Magari può essere esatta l'equazione, se c'era Sarri il Milan giocava in maniera diversa, non so se meglio o peggio, ma certamente in una maniera forse più affine al pensiero del proprietario Berlusconi. Mihajlovic, quando l'hai preso, sapevi perfettamente che era un allenatore molto caratteriale e che crede in un calcio abbastanza semplice, robusto, che necessita di giocatori di qualità, non c'è dubbio. Sì, io però non noto tutta questa gran differenza tra l'ultimo Milan di Allegri, quello passando attraverso Seedorf, Inzaghi e questo di Mihajlovic. Cioè mi sembra che il filo conduttore, che il filo rosso che lega queste squadre, il loro rendimento e la loro faccia un po' depressa sia sempre la stessa. Ma a me sembra che sia una squadra a cui manca un po' di leadership, manca un po' di personalità sul campo. Tant'è vero che questo poi ci è stato anche riferito da chi si trova per esempio a giocare a San Siro e ha difficoltà a gestire il fischio, il grido di disapprovazione, eccetera. Seedorf quando faceva calciatore veniva subissato di fischi, ma gli rimbalzavano e magari se si metteva in testa di fare la grande partita la faceva. Ecco, io credo che il Milan abbia bisogno chiaramente di trovare anche dei risultati, un minimo di spinta, di entusiasmo, però un po' il cane che si morde la coda, grandi risultati li trovi se hai grande personalità e se vai oltre anche quella che è la disapprovazione del momento. Ti chiedo un'ultima cosa Alessandro, dove può, che è un po' il tuo pane, uno dei tanti settori in cui spezzi il pane, dove può incidere di più il mercato, su quale squadra tra quelle di vertice hai l'impressione che possa incidere in maniera più consistente? Credo che se il Napoli prende Kramer, ecco, fa il grande colpo, perché è un giocatore completo di centrocampo, è un grande centrocampista, se non un bravissimo centrocampista. Non è facile, se lo fa subito è veramente un grande colpo e fa un ulteriore passo in avanti. Poi ci sono formazioni perfettibili tipo l'Inter, che però se cerca l'attaccante secondo me va a rinforzare un settore che è già comunque completo. Se l'Inter invece per esempio compra un centrocampista importante che faccia anche gioco, secondo me si migliora. La Juventus non deve fare, a mio parere, operazioni in uscita né entrata. La Roma, invece, con Spalletti ha bisogno di correggere certamente la difesa e vedere come muoversi in attacco, perché da quello che so, insomma, Jorginho non rientra più nel progetto tecnico di Spalletti, era più un uomo legato a Garcia. Certo, anche lui in Cina è stato chiesto potrebbe anche lui andare in Cina, sì. Grazie Alessandro, sempre un piacere. Grazie sentirti. A voi ragazzi. Ciao, buon Ale. Pomeriggio. Ciao Alessandro, buon anno. Maurizio da Milano, buongiorno. 800240024, numero verde. Buongiorno. Dica. Chiamavo solo per dire che secondo me Garcia ha pagato un po' la sua testardaggine, cioè non cambiando mai modulo di gioco. Cioè il primo anno con Gervinho giocavamo in contropiede, è andata bene. L'anno dopo Gervinho è andato via, si è fatto male Strootman, non è riuscito a cambiare modulo di gioco, ha sempre giocato con lo stesso. Quest'anno è arrivato un centravanti che è un centravanti, ma il modulo è stato sempre quello, cioè palla lunga e pedalare in un certo senso. Sì, la sensazione però è un po' quella, no? Che, esatto, che il disegno di Garcia fosse di un certo tipo e fino a quando la Roma è riuscita a giocare con quel disegno che nella sua prima stagione era meraviglioso. Esatto, la partita lampante è stata con l'Inter qui 3-0 a Milano, dove praticamente due frecce partivano, Florenzi, esatto, da una parte e poi la Roma dall'altra, velocissima nel chiudersi e nel ripartire, come il movimento, esatto, di una mano, come il movimento anche di una mano, sapendo anche che dietro c'era un Benatia e un Castan che non avevano chiuso il lucchetto e non passava nessuno. Però quest'anno hai un centravanti, non puoi andare a giocare nella stessa maniera che hai giocato i due sono anni d'accordo, precedenti. Oltretutto andare a Barcellona, a me ha dato l'impressione, non sono uno di calcio, ne capisce, però non puoi fare fuori gioco a centrocampo, no, con quelle, chiaro, con quelle, chiaro, con quelle, no, frecce lì e con quelle persone che del pallone lo mangiano. La Roma ha fatto alcune partite soprattutto in Champions League che sono state al limite dello scandaloso dal punto di vista della fase difensiva. Ricordo comunque le due con il Bayer Leverkusen, quella di Barcellona è stata onestamente imbarazzante, al di là del fatto che ovviamente dall'altra parte c'era la squadra migliore del mondo che ha scherzato letteralmente la Roma. Quindi in questa stagione interpreti di minor valore, un feeling rotto, un feeling spezzato probabilmente con l'allenatore, e ritengo anche il limite di un allenatore che non è saputo andare, non è stato bravo ad andare al di là delle sue più radicate convinzioni. Non so se Sandro Sabatini da Mediaset è d'accordo con questa analisi. Ciao Sandro, che piacere. Ciao, un piacere mio. Guarda, io credo che Garcia abbia avuto un'involuzione pari all'evoluzione delle pressioni, direttamente proporzionale, in questo senso, perché il primo anno Garcia non aveva le coppe, questo non va dimenticato, e quindi aveva la possibilità evidentemente di impostare sia il fattore sorpresa, perché in Italia non lo conosceva nessuno, Garcia, sia anche di impostare il lavoro durante la settimana, poi con le coppe e non coppe di secondo piano, perché la Champions League prosciuga energie anche mentali, e non ha ripetuto il rendimento del primo anno. A questo va collegato anche il fattore della preparazione atletica, sì, perché i dati che emergono sul girone andata, su quanto la Roma ha corso, o meglio ha passeggiato, sono assolutamente inquietanti. E riguardo poi alla tattica, sai, io credo che a Barcellona perdi se fai il fuorigioco anche sulla linea di porta, quindi insomma sì, però quando vedi quelli che sembrano giocare a calcetto, come vedere una partita di calcetto del giovedì sera tra amici, no? Sono quelli più forti che vanno in porta con il pallone. Quello è stato francamente imbarazzante, perché c'è modo e modo. Sì, c'è modo e modo, sicuramente c'è modo e modo, è stata brutta tatticamente, anche la resa proprio psicologica da sudditi, insomma, nei confronti di sua maestà, esatto, di Neymar e Suarez. Sì. Lo chiedo anche a te, che effetto ti fa la carica dei cinesi che hanno preso Luis Adriano e lo stesso Mihajlovic? Lo sentiamo Mihajlovic, perché è stato ceduto Luis Adriano? È molto molto semplice. Penso che comunque la società ha fatto bene, perché comunque ha preso Adriano per 7-8 milioni, l'ha venduto per 14-15, non lo so, perciò è una cosa da fare adesso. Poi sicuramente quando recupereremo tutti, sarà al breve, andiamo avanti così, non è un problema. Milan ha fatto benissimo cedere Luis Adriano, giocatore che peraltro qui ha segnato 3 gol giocando brandelli di partita. Adesso Jiangsu vuole Guarin e vuole Gervinho e secondo me se li porta a casa. Che impressione ti fa questa ondata cinese? Ma guarda, visto che parliamo a Radio 24 non lo so che impressione mi fa, però supponiamo che io sia uno dei tanti investitori della borsa italiana che vede che le azioni calano e il FTSE MIB cala perché sulla onda lunga delle borse cinesi, delle borse asiatiche, quella cinese soprattutto, non capisco poi perché nel calcio ci sono invece tante possibilità economiche. Fatto questo discorso molto di strada, io credo che il mercato del calcio si stia aprendo a due paesi che sono senza dubbio molto interessanti, anzi, ancorché molto lontani, quello statunitense e non da oggi, quello cinese all'improvviso, perché fino all'altro ieri, fino praticamente a Luis Adriano, non consideravamo ancora il mercato cinese come un possibile mercato di competitor, un player, diciamo così, nel calcio globale. E invece stiamo scoprendo che ci sono tanti soldi, tanti milioni, e c'è la possibilità, questa abbastanza banale, di aprire al calcio in Cina con tutto quello che ne consegue anche dal punto di vista commerciale, i benefici che sono per l'Italia, non soltanto quelli delle cessioni a prezzo raddoppiato tipo Luis Adriano nel giro di 6 mesi, grande speculazione, diciamo, sì, così, sì, di Galea, ma in generale possono arrivare dei soldi, del movimento di denaro importante per i mercati europei, non soltanto dai minimi trasferimenti di calciatori. Chiaro, anche dalle società. Altra notizia di oggi: Granada in vendita, perché sono i soliti cinesi che vorrebbero rilevarlo. Dunque saluto Sandro Sabatini, altro grande signore del mercato con Calcio Mercato Premium, ci vediamo lì, Sandro. Va bene, grazie. Molto volentieri, ciao, grazie. Ciao Sandro Sabatini, e saluto anche tutti i miei amici ascoltatori, oltre che Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bin in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Arrivederci ragazzi, ciao!